Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Benvenuti a una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Apriamo come di consueto con la nostra copertina che è dedicata al SARS-CoV-2 e che ha l'obiettivo di rispondere a una domanda: il virus rallenta la corsa o la riprende? In linea con noi il professor Marcello Ottavio, direttore dell'unità operativa di malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona e presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Professor Ottavio, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professor Ottavio, ma che cosa sta succedendo? I casi sono tornati a salire. Il virus rialza la testa? Il virus non era mai andato via. Aveva sicuramente avuto molte più difficoltà a diffondersi da persona a persona, grazie a tutte le misure che erano state intraprese per ostacolare la sua diffusione, però era rimasto fra noi, è rimasto fra noi, per cui non deve stupire che ci siano dei focolai che qua e là si accendono. La cosa importante è controllarli in maniera rapida e sicura. Ma professore, è lo stesso virus dell'inizio epidemia? Perché nelle prime settimane dell'emergenza contavamo un po' come in una guerra, morti e feriti. Oggi facciamo i conti con focolai che possiamo paragonare a episodi di guerriglia, che non per questo vanno sottovalutati, ma che hanno naturalmente delle dimensioni più modeste. Guardi, rispondo alla domanda in maniera secca. È lo stesso virus? Sì. Perché ci dà l'impressione di essere un virus diverso? Per una questione di prospettiva. Noi all'inizio, non sapendo che avevamo a che fare con un nuovo virus, non abbiamo notato tutti i casi leggeri, lievi, asintomatici che accompagnano la comparsa di queste malattie. Abbiamo visto che cosa? I casi che si verificano più avanti, quindi i morti e i feriti a cui fa riferimento lei. In questo caso invece che cosa vediamo? Proprio perché siamo consapevoli della sua presenza, ci permette vedere il virus con una prospettiva diversa, più favorevole. Professor Ottavio, ma questo virus sembra un po' dividere la comunità scientifica, il cittadino che vive già in una situazione di incertezza e di timore, si sente confuso? Sì, si sente confuso un po' per colpa, anzi totalmente per colpa della società scientifica che giustamente dibatte fra diverse opinioni, perché la bellezza della scienza è quella di avere opinioni diverse, ma quando i fatti si concretizzano è assolutamente indispensabile che la comunità scientifica si presenti in maniera chiara e coerente. Il virus si diffonde, che può causare infezione e malattia, che non va lasciato libero di circolare e che i comportamenti virtuosi che abbiamo adottato durante il lockdown funzionano benissimo anche fuori dal lockdown per tenerlo fuori dalle nostre case. Quindi il messaggio da dare è molto semplice: continuiamo a comportarci in maniera appropriata e il virus starà fuori dalle nostre case. Professore, ma ci aiuti un po' a capire, gli asintomatici ad esempio continuano a essere potenzialmente contagiosi o no? Guardi, gli asintomatici sono sempre stati potenzialmente contagiosi. È chiaro che una malattia infettiva come questa si diffonde soprattutto attraverso le persone sintomatiche ed è il motivo per cui noi abbiamo sempre chiesto di fare il test a tutte le persone sintomatiche nel più breve tempo possibile per poterle isolare e trattare. E le persone asintomatiche possono sfuggire a questo screening naturalmente, se non attraverso la anamnesi, cioè attraverso il concetto che siano stati in contatto con qualcuno sintomatico. Comunque sia, possono trasmettere il virus, ma sono sicuramente meno importanti dei sintomatici, per cui continuiamo a preoccuparci di chi ha i sintomi e dei comportamenti adeguati per evitare di trasmettere l'infezione. A proposito di sintomi, uno studio del San Matteo di Pavia dimostra che nei pazienti che hanno superato i sintomi e quindi che sono stati malati, il virus ha una carica bassa. Dunque, in sostanza, chi è guarito non è più contagioso. I ricercatori sono giunti a questo questa conclusione mettendo nei campioni di virus di 280 tamponi in coltura e hanno proprio evidenziato che il virus non è più in grado di infettare le cellule, se non per una percentuale minima, pari al 3%. Che cosa aggiunge alla conoscenza del virus questa scoperta, professore? Direi che è una ricerca molto interessante e importante anche da un punto di vista della gestione dei casi, perché dimostra che superare clinicamente la malattia permette di dire che la persona non è più infettante. In effetti la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto tesoro di questa e altre ricerche e in talune situazioni è consentito dichiarare una persona guarita dopo soli 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi. Quindi per una persona che è guarita stabilmente per almeno 3 giorni oltre la scomparsa dei sintomi non viene più neanche ritenuto necessario fare il tampone. Professore, bambini e ragazzi sono stati in parte risparmiati dal Covid-19, ma sino ad ora non è stato ben chiarito se siano potenziali fonti di contagio. Questa sarebbe un'informazione utile. Ci sono delle novità? Allora, sono sicuramente potenziali fonte di contagio. Quello che è stato sempre chiaro è che bambini e giovani non ammalano gravemente, ma sono perfettamente in grado di prendere l'infezione e di trasmetterla. Professore, andiamo al messaggio finale, conclusivo della nostra copertina. Che cosa ci portiamo a casa? Un antico proverbio latino, si vis pacem parabellum. Abbiamo, che vuol dire, se vuoi la pace, preparati alla guerra. Abbiamo combattuto una battaglia durissima nelle settimane del lockdown, abbiamo sostanzialmente vinto questa battaglia, adesso dobbiamo vincere la pace, cioè dobbiamo convivere con questo nemico, ben armati, perché le armi funzionano, sapendo che abbiamo i test per testare rapidamente le persone che possono essersi infettate e avere i sintomi. Abbiamo delle terapie che funzionano, altre che devono essere testate sul campo, ma che sono potenzialmente molto utili. E sappiamo, lo ripeto per l'ennesima volta, che dei comportamenti appropriati e corretti ci difendono nel migliore dei modi da questo tipo di virus. Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e mi auguro di sentirla presto. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Bene, adesso ci fermiamo, facciamo una piccola pausa, torniamo veloci, veloci insieme. Siate gentili, restate con me, perché di gentilezza parliamo. A tra poco. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati in weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Obiettivo Salute Weekend. La gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e il cieco può vedere. Riprendiamo il passo con Mark Twain, lo scrittore statunitense, autore di capolavori. Siamo venuti tutti grandi leggendo le avventure di Tom Sawyer, ad esempio. Parliamo di gentilezza perché vogliamo tornare proprio a parlare di questo. L'abbiamo già fatto in occasione di l'uscita di un libro che è stato protagonista di una puntata di Obiettivo Salute e Risveglio, che, pensate, in poche settimane è già in testa alle classifiche italiane. Si intitola La biologia della gentilezza. Un libro scritto a 4 mani da Daniel Lumera, autore di bestseller, esperto nelle scienze del benessere e della qualità della vita, che è tornato a trovarci. Grazie per essere con noi. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Ma oggi abbiamo anche raggiunto l'altra autrice, la professoressa Immacolata De Vivo, è un'epidemiologa di Harvard, pensate, è una delle massime esperte mondiali nel settore della epidemiologia molecolare della genetica del cancro e anche nello studio dei telomeri, sono un po' la parte terminale dei nostri cromosomi e oltre a essere dei marcatori dell'invecchiamento funzionano un po' da orologio biologico del nostro organismo. Un libro, insomma, che sulla base dei risultati di 30 anni di ricerca nel campo scientifico e sociale unisce la saggezza antica con la scienza, l'io con il noi, il cuore, la mente. Ma lo chiedo subito a Daniel Lumera, che cosa vi ha spinto a raccontare le basi biologiche della gentilezza? Come a dire, come è nata l'idea di questo libro? Allora, questo libro nasce dall'idea iniziale di fare un articolo che potesse riassumere 30 anni di ricerca non solo scientifica ma anche nel campo del sociale. Io personalmente ho visto delle trasformazioni incredibili nelle persone dove abbiamo portato queste tematiche della gentilezza, degli altri valori, per esempio nelle carceri o nell'accompagnamento alla morte delle persone e nell'elaborazione del lutto, del dolore e della sofferenza. Abbiamo visto che c'era un enorme impatto non solo psicologico, emozionale, ma proprio nella salute del corpo. E allora con la professoressa De Vivo abbiamo inizialmente pensato a un articolo e poi ci è sfuggita di mano la situazione, in effetti. Bello, abbiamo un mare di dati, di spunti, bello. Di valori anche. Di valori. Dalla gentilezza abbiamo creato il concetto di biologia di valori, soprattutto perché la scienza ci dimostra che i valori sono delle medicine naturali e quindi la responsabilità della nostra salute non dipende solo chiaramente da un aspetto genetico o semplicemente da ciò che mangiamo e da come ci relazioniamo, ma soprattutto da quanti e come di questi valori riusciamo a coltivare nella nostra vita. Insomma, possiamo dire che la gentilezza è quasi terapeutica nelle nostre relazioni interpersonali, ad esempio ne abbiamo tutte esperienza, la gentilezza unisce, crea sintonia, favorisce il dialogo con l'altro, ma nel libro voi spiegate che essere gentili, praticare la gentilezza nutre anche la nostra salute. Perché è davvero così importante essere gentili con se stessi e con gli altri? Quando abbiamo iniziato questa ricerca io sono rimasto veramente colpito, ad esempio, dai centri di ricerca sul cancro più avanzati del mondo, perché lì ho visto che sono proprio stati adottati dei protocolli di supporto anche psicologico ai pazienti e soprattutto e anche alle famiglie, che sono incentrati sulla gentilezza, una gentilezza come strumento di vicinanza umana alle persone che affrontano un percorso oncologico, quindi stiamo parlando di qualcosa di importante. E cosa si è visto? Si è visto che nel tempo, se il contesto è gentile, la gentilezza è uno strumento potentissimo che è in grado di agire, di disinnescare tutte quelle emozioni che sono potentemente negative, che sono associate alle diagnosi di tumore, per esempio, e aiuta moltissimo nel percorso terapeutico, contribuisce quasi al 100% dei casi a migliorare la risposta ai trattamenti. E quindi diciamo che l'ascolto, l'empatia, la generosità del personale sanitario, quindi atti di gentilezza e premura che vanno oltre le aspettative del paziente e delle famiglie, sono una medicina potentissima, non solo antistress, ma proprio creano supporto nel trattamento del cancro, e questi protocolli coinvolgono pazienti, famiglie e operatori sanitari. Quindi si tratta sostanzialmente di essere gentili con se stessi e con gli altri per migliorare non solo la qualità della vita in queste situazioni così complesse, ma in generale tutta la nostra vita. Noi sentiamo un po' il bisogno di tornare o di ripartire dalla gentilezza per costruire il nostro presente, la nostra quotidianità. Il successo di questo libro ne è la dimostrazione. Probabilmente anche solo 5 anni fa forse non avrebbe potuto essere scritto. Adesso anche la scienza dimostra che, come ci ha spiegato Daniel Lumera, i valori non solo nutrono le nostre relazioni, ma hanno anche un impatto diretto e misurabile sulla nostra salute, tanto che si può parlare di una biologia della gentilezza, non a caso il titolo. Abbiamo chiesto a Immacolata De Vivo di raccontarci allora che cosa dice la ricerca che ha studiato le basi biologiche della gentilezza. Sentite che cosa ci ha risposto. Nel libro ho presentato i risultati di anni di ricerca scientifica, miei e dei miei colleghi, nel campo della prevenzione delle malattie. Abbiamo tanti studi che dimostrano che possiamo promuovere la salute e la longevità adottando atteggiamenti positivi. La gentilezza, ottimismo, perdono, gratitudine, felicità sono i valori che fanno bene, non solo alla mente o allo spirito, ma anche al corpo, perché modificano il nostro DNA. Questo ci rende più forti, allontanano le malattie croniche, tipi dell'invecchiamento, e ci aiuta a vivere più a lungo e in salute. Ma come fa la gentilezza, in tutte le sue forme, a incidere sulla nostra genetica? Ancora professoressa Immacolata De Vivo. Attraverso i telomeri, cioè parte del DNA che sono modificabili dei fattori ambientali. Fumare, essere obesi, essere sedentari, sono stili di vita che danneggiano i telomeri e favoriscono malattia e invecchiamento. Ma mangiare sano, fare sport, ma anche meditare e fare volontariato, aiutare altri, sono invece attività che proteggono i telomeri e aiutano a allontanare la malattia. Io dico sempre, sii gentile con il tuo DNA, il tuo DNA sarà gentile con te. È bellissimo, sii gentile con il tuo DNA, Daniel, e il tuo DNA sarà gentile con te. Ma la professoressa De Vivo ha utilizzato una parola bellissima, che è volontariato. Chi fa volontariato, ha detto, ha i telomeri più lunghi. Io all'inizio non volevo credere a questa cosa, poi quando ho visto i dati mi sono meravigliato, perché lei non l'ha citato, ma c'è uno studio californiano su circa 6.000 persone che erano impegnate a fare attività di volontariato. Avevano un rischio di mortalità più basso del 60% rispetto alle persone che non facevano attività di volontariato. E questo risultato, tra l'altro, è stato confermato da un altro studio del 2018 che è stato fatto ad Hong Kong, in cui hanno visto questa volta che chi pratica volontariato, cioè chi investe nella gentilezza verso gli altri, fa il miglior investimento sulla propria salute, perché innanzitutto c'è una più bassa incidenza di depressione in questi soggetti studiati, migliora il benessere fisico e poi ci sono più alti, molto più alti livelli di soddisfazione verso la propria vita, verso il significato, verso il proposito della propria vita. Tutta l'attività emotiva è decisamente migliore. E poi, come dice e ricorda giustamente la professoressa De Vivo, promuove la longevità non solo come qualità di stile di vita, ma proprio a livello biologico. Quindi è chiaro, la gentilezza fa bene, fa proprio bene. Da questo libro sta nascendo un vero e proprio movimento della gentilezza. Vuole raccontarcelo? Allora, il movimento che è nato è stato qualcosa di spontaneo e di meraviglioso. C'è stato, per esempio, Bari, Città Gentile, attraverso il Centro di Giustizia Minorile della Puglia e della Basilicata, ma San Marino, lo Stato di San Marino, che a fine luglio dichiarerà di essere ufficialmente il primo Stato gentile al mondo. Quindi siamo di fronte a quello che era un po' successo la stessa cosa tanto tempo fa, alla fine del 1700, perché Benjamin Franklin ha dato vita lì al movimento, che poi è diventato un movimento mondiale, il Paid Forward, passa il favore. Lui ricevette una lettera da un vecchio amico che gli chiedeva un prestito economico e lui acconsentì a dargli questo denaro, accettò, però a una condizione, cioè il suo amico avrebbe dovuto ripagare quel debito, ma non restituendo il denaro a lui, ma donandolo a qualcun altro con necessità. Bello, bellissimo. Questo è molto bello, è una qualcosa di cuore che crea però salute, che crea prosperità. Perché questo investimento avrebbe aiutato altre persone. Questa catena però non si deve spezzare, nel senso che se tu dici come funziona, è molto semplice, basta compiere un piccolo atto di gentilezza senza aspettarsi niente in cambio, e se lo ricevi lo fai a tua volta a qualcun altro per mantenere vivo questo effetto a catena. E c'è una sfida che a me piacerebbe lanciare a tutte le persone, che riguarda questa settimana che viene sarebbe bello iniziare questo movimento di passa il favore, di paid forward attraverso la gentilezza, cioè ogni giorno compiere un atto di gentilezza incondizionata verso un'altra persona. Uno al giorno per una settimana. Dai, proviamo. Diventiamo anelli di questa catena gentile. Grazie, grazie a Daniel Lumera, Roberta Frisani in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. E noi ci sentiamo domani. Siate gentili, a mezzogiorno c'è la bufala in tavola. Non mancate. Buona sabato da Nicoletta. Grazie a Daniel Lumera.